Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune rapide informazioni di servizio. La prima riguarda il nostro sito radio24.it. Potete visitarlo, leggere le cose che ci sono scritte, dialogare con i giornalisti, con il mio blog Guardie o Ladri che trovate sotto il mio profilo. Potete scaricare le puntate via podcast, abbonarvi. Seconda informazione di servizio, la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Oggi però non parliamo di un caso sollevato da un radioascoltatore, ma di una lettura di cui ho goduto il 7 aprile del 2010. In realtà è stato un piacere a metà, in quanto la storia la dice lunga sull'incapacità, ed ecco l'abuso, dell'Italia, delle università italiane, del mondo della ricerca italiana, di saper accogliere al meglio i cosiddetti cervelli di ritorno. Io li chiamo abusi all'intelligenza, questo perché, sapete, lo dico spesso, nella formazione, nella conoscenza, nella scuola bisogna investire, altrimenti già siamo un popolo che ha delle difficoltà, già siamo una nazione in declino, nonostante ci sia chi dica il contrario, figuriamoci come ci troveremo tra 20 anni, chissà che futuro sempre più penoso continueremo ad affidare ai nostri figli. Allora, la storia è quella di Fabrizio Tamburini, che è un astrofisico veneziano che è tornato dall'estero e è arrivato all'Università di Padova, dove vive e svolge la sua vita da precario. Però questo Tamburini, che probabilmente non conosce nessuno fuori dell'ambito scientifico, quindi stiamo parlando di un'elite intellettuale straordinaria, fa delle cose pazzesche, al punto da essere stato anche recentemente invitato a tenere una conferenza sulle cose che sono degli astrofisici, quelle cose che non capisce nessuno, no? I vortici ottici, il movimento angolare orbitale della luce. Uno dice, beh, a me che mi interessa, ma che me ne frega del moto angolare della luce? Eh no, cari miei, interessa a tutti quello che fa un ricercatore di questo livello, perché, tanto per dirne una, il Gazzettino di Venezia, appunto, che ha raccontato questa storia, il signor Tamburini con i suoi studi fa in modo che un digitale terrestre fino a 100 canali sia in una sola frequenza, oppure cose di questo tipo che riguardano, come dire, il miglioramento della vita quotidiana, l'evoluzione, la specie si evolve. Allora, da che mondo è mondo? Ebbene, questo che è il signore della luce, come lo ha chiamato il Gazzettino, si trova in una condizione in cui vive di assegni di ricerca. Buongiorno, professor Tamburini. Buongiorno a lei. Una battuta che sto usando recentemente. Prego. Il signore della luce è alla canna del gas. Bene, bene. È come dire, tristemente ironica questa battuta. Il signore della luce è alla canna del gas. Senta, ma se io le chiedo quanto guadagna, lei mi manda a quel paese? Beh no, sono 1380 euro, ma è grazie anche a un'autotassazione da parte del direttore del mio dipartimento, perché altrimenti sarebbero 1100 euro, perché diciamo, parte dei fondi per la ricerca eccetera sono stati, diciamo, stanziati per aiutarmi, ecco, in un certo modo. Ecco, allora, il professor Tamburini, che è stato chiamato da un'istituzione, il Celsius di Uppsala in Svezia, per un simposio internazionale, vive con 1380 euro al mese perché c'è il suo capo, il capoccione che gli sta sopra, che dice, insomma, cerchiamo di venirgli incontro. Questo è il livello, diciamo così, della cultura della ricerca in Italia. Questo è quello che noi ci meritiamo, mi viene da dire, perché siamo in grado di dare migliaia di euro al giorno per un culo scoperto che viene a inaugurare un supermercato, ma noi diamo 1380 euro ad un astrofisico veneziano. Tamburini, a che cosa sta lavorando ora? Adesso sto lavorando su un nuovo aspetto del campo elettromagnetico, quindi va dalla luce alle onde radio e raggi X e tutto il resto. Ma una cosa buffa per il precariato, che volevo dire, anzi grottesca, è che l'università avrebbe voluto darmi molto di più, però c'è una legge dello Stato, c'è un tetto massimo. massimo che quello che è stato detto. Non, ecco, c'è quindi... non è adesso per fare, voglio dire, no, l'uomo qualunque, però queste qui sono cose oggettive, cioè il tetto non c'è per chi siede le chiappe in più poltrone, no? Assessori, consiglieri, deputati, membri del consiglio di amministrazione delle partecipate comunali, regionali, provinciali, delle comunità montane e via dicendo, ma il tetto c'è per chi fa ricerca e studio. Tamburini, ma chi gliel'ha fatto fare tornare in Italia? Beh, io avevo bisogno di tornare in Italia perché, in poche parole, dopo il dottorato fatto in Inghilterra e tutto il resto, purtroppo i miei due genitori in sequenza nei vari anni si sono ammalati, li ho persi entrambi in oncologia purtroppo, quindi... Ma tornerà fuori dai confini patri, come si diceva una volta, oppure nonostante tutto questo paese benedetto e maledetto, come dico io spesso, attrae al di là del fatto che lei deve vivere con una miseria, perché voglio dire, 1380 euro, io lo ripeto, mi vergogno, 1380 euro, allora tornerà all'estero oppure rimarrà qui? Allora, se non avrò altre opportunità, ritornerò all'estero. Offerte non è che ne mancherebbero. Certo. C'è stato anche il momento di crisi, così. Adesso mi sono anche ripreso con la salute, perché per stress, eccetera, ci ho rimesso anche il cuore un po'. Certo. E quindi per voler lavorare simultaneamente e fare assistenza con mia sorella e i miei. Mm-hmm. Però a parte questo, il lavoro è così bello, che se avessi soldi pagherei per farlo. Ah, non lo metto dubbio, quello che dico anche io per il mio mestiere, lo amo talmente che se anche non mi dessero soldi, speriamo che non mi sentano in amministrazione, lo farei lo stesso. Ma lei ha detto una cosa importante, cioè l'assurdità di una legge italiana che mette un tetto allo Stato e la spiegazione è sempre la stessa, cioè siamo sentiti ripetere mille volte dal ministro dell'economia Giulio Tremonti che non possiamo sforare i parametri fissati da Masi, tutto quello che vogliamo. Allora, detto questo, è una parte importantissima, fondamentale e vitale, ma quanto schifo ha trovato lei in ambito accademico? Cioè quante persone scosciate le sono passate davanti, quanti figli di papà, quanti amanti di, quante persone che avevano un aggancio, oppure invece l'Università di Padova è l'Eden della meritocrazia? In dipartimento da noi siamo in pochissimi, quindi non è che ci siano questi episodi. Per fortuna non ho avuto un'esperienza diretta su queste cose, perché altrimenti, cioè, non sarei rimasto zitto, ecco. Certo, però lei in un passaggio dell'intervista dice che in Italia vince il baronato. Accidenti, ne ho sentite di tutti i colori, perché ne ho sentite solo, per fortuna non ne ho avuta esperienza, perché altrimenti io sono un tipo, insomma, che sono calmo, ma mi arrabbierei parecchio. Anche perché, voglio dire, la legalità o è legalità o non è, insomma, no? Sì, sì, infatti, ma io ho avuto la fortuna di aver trovato questo dipartimento dove mi sono laureato poi, quindi essendo certo pochissimi studenti, sia un rapporto diverso con i docenti. Ecco, cioè un rapporto fraterno e familiare, insomma, diciamo. Sì, sì, sì, sì, sì. Cioè, se uno ha un problema, sono sempre disponibili a venirti incontro, a spiegarti una cosa. Mentre su altre facoltà enormi vedo altre persone. Senta, ma in Italia ci sono belle teste come la sua? Cioè, lei tra quelli che sta, come dire, seguendo tra i suoi studenti, c'è qualcuno che lei dice, caspita, questo qui se verrà messo nelle condizioni di non chiedere o di non dare, può far del bene al nostro paese? Ho due studentesse che sono molto brave, sono un po', come si dice, un po' severo, difatti mi chiamano dottor House, per sì, un'idea. Si figuri, io quando ero caporedattore ero non cattivo ma cattivissimo, perché non ammetto la mediocrità, quindi so cosa vuol dire. Però diceva... Però tutti, compreso anche il mio studente che era molto bravo, adesso all'Istituto di Fotonica a Barcellona, all'Istituto Europeo, ecco, di Fotonica. Fantastico. È una soddisfazione che non avete idea. Cioè, sì, si figuri, per chi vede un altro cervello scappare e andarsene a Barcellona invece che rimanere a Padova magari. No, ma stiamo sempre in contatto lavoriamo assieme, solo che purtroppo le risorse sono quelle che sono. Un piccolo pensiero che vorrei fare. Prego, così, prego. L'università non costa tantissimo alla società, come in termini di costi e tutto il resto, anche come stipendi. Quello che mi sorprende è, noi dovremmo avere il compito, anzi, di formare la classe dirigenziale del nostro paese. Certo. E se non investiamo in quello... È quello che dico anche io, assolutamente, lo vado ripetendo, ma la mia ovviamente è l'ultima voce che conta nel carro dei tromboni che vivono e governano questo paese. Allora, avete sentito la straordinaria storia di Fabrizio Tamburini, a suo fisico veneziano, tra i migliori, diciamo così, sulla piazza, che a Padova è un precario. Una storia straordinaria, tipicamente italiana. Quando questo paese diventerà un paese normale, Tamburini non sarà un precario. Mi auguro che lei, Tamburini, presto, prestissimo, non lo sia più, e forse vuol dire che il paese comincia a diventare un pizzico più normale. Grazie al professor Fabrizio Tamburini, in regia Pietro La Corte, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.